Abbiamo deciso di chiamare, diciamo, questa azione ieri pomeriggio, per tenere un po' insieme quello che sta succedendo in alcuni paesi vicino a noi, ovvero l'uscita dalla Convenzione di Istanbul della Turchia e un voto che c'è stato ieri in Polonia per fondamentalmente sostituire anche lì la Convenzione con un'altra serie di regolamentazioni che però vanno nel senso opposto alla Convenzione di Istanbul, perché cercano di preservare la cosiddetta famiglia tradizionale e minano ancora di più i diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+. Che cos'è la Convenzione di Istanbul e perché dà così fastidio a questi governi? La Convenzione di Istanbul è una serie di regole che contrasta effettivamente la violenza sulle donne e fu uno dei momenti storici per la lotta anche delle donne, proprio per il riconoscimento della violenza e della violenza come fenomeno strutturale, per cui che va combattuto, diciamo, attraverso tutta una serie di approcci che non si limitino solamente, ad esempio, all'uso di leggi repressive o punitive. E questo per Erdogan metterebbe a repentaglio la famiglia tradizionale? Sì, assolutamente. In realtà quello che sta succedendo in Turchia, diciamo, è l'ennesimo esempio di, appunto, una repressione visibile contro la lotta femminista e contro la lotta delle donne, perché, ad esempio, cosa è successo l'8 marzo a seguito di una manifestazione che ormai avviene da diversi anni in Turchia per lo sciopero e appunto, per l'8 marzo, alcune attiviste sono state addirittura arrestate, per cui evidentemente c'è un riconoscimento nella forza anche che il movimento femminista e la lotta delle donne ha, e questo appunto mette a rischio invece tutta una serie di politiche contro i nostri diritti. Lo stesso discorso può valere nell'Europa dell'Est, appunto abbiamo parlato prima della Polonia, anche in Polonia il movimento delle donne è molto forte, si è fatto sentire nei mesi, negli anni scorsi, appunto il governo può avere paura e quindi procede con questa riscrittura. Assolutamente, perché di fatto quello che ha evitato l'ennesima modifica alla legge effettivamente contro l'aborto in Polonia, sono state, delle proteste di massa, nonostante l'anno di pandemia che anche la Polonia ovviamente sta vivendo, per cui anche lì evidentemente c'è una effettiva paura rispetto a quello che poi i movimenti come quello femminista, ma anche in questo caso appunto anche quello insieme a quello delle persone LGBTQIA+, può scatenare, perché è stata una reazione probabilmente inaspettata e evidentemente ha avuto anche i suoi effetti, ma effettivamente questa linea politica non si fermerà nonostante le proteste. Per cui anche noi da qui dobbiamo tenere alta l'attenzione, cercare di supportare il più possibile quello che sta succedendo, le proteste, e diciamo lo facciamo come possibile.